signor. Lindo! T'invia Vitellia questo foglio. Vitellia! Addolorata! Cara Vitellia! Geminio amato ben, giurar non volli contro di te, contro dei tuoi nel tempio l'odio e la guerra. Tito il genitore la cagion mi ricerca, e perché taccio mi prepara momenti di falari dei tori, di mesenzio i tormenti. Barbaro Tito, vieni rapido, salva me, salva te stesso, per manda amor dentro al mio cuore impresso. Udisti? Sì, di quei rai dolenti argine farò al pianto. Ma il torto che il senato fa alle latine genti, negando il consolato, occupa di Geminio tutti i sensi e i pensieri. E il Lazio appoggia, perché Roma sia posta in ferreo laccio, la vendetta del torto a questo braccio. Vitellia sei spedita. Ciò narra la mia vita, e le dirai che fatto mio l'universale impegno, e mancando sarei delle mie fasce, e di Vitellia impegno. L'abbraccerai dell'eremo nel regno.